edizione. Le 6, 12 minuti e 5 secondi. C'è qualche altra notizia da dare. Abbiamo appena sentito Roberto Galullo parlarci appunto di temi che riguardano la criminalità organizzata. Ci sono dettagli maggiori sull'operazione avvenuta nel Catanzarese, della quale vi davamo conto poco fa. Si apprende che dalla Guardia di Finanza che sono stati sequestrati alla cosca sia Procopio Tripodi beni immobili ed immobili per un valore di 30 milioni di euro. Ci sono tra le altre cose rapporti bancari, quote societarie, attività economiche e un villaggio turistico composto da 200 unità immobiliari, proprio sempre nel Catanzarese. Sempre a proposito di criminalità organizzata, altra notizia della notte, in realtà sono le parole di Giovanni Conzo, pubblico ministero della DDA di Napoli, che si occupa delle inchieste sui casalesi, che dice, stando a quanto riferisce l'ANSA, il clan dei casalesi non sarà davvero finito finché non si colpirà quell'area grigia del rapporto tra imprenditori e politici. E poi, politici che sono stati al governo del nostro paese, che siedono sui più alti scranni del Parlamento, insomma in qualche misura sono coinvolti politici, notare il plurale. Infine, una notizia invece di economia che arriva dal Fondo Monetario Internazionale. L'FMI ha annunciato di aver approvato un versamento di quasi 4 miliardi di euro, 3,9 per essere esatti, che è la quinta tranche di un prestito accordato nel dicembre 2011 all'Irlanda. Questo ancora il quadro delle notizie della notte. Ci ritroviamo tra un attimo per una breve rassegna stampa. Prima edizione. 6, 15 minuti e 50 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Noi andiamo a dare un'occhiata a quello che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Allora, il primo giornale che vi segnaliamo oggi è il Sole 24 Ore, perché l'edizione è decisamente particolare, nel senso che abbiamo un primo dorso, una prima parte del Sole 24 Ore che è dedicata interamente alla manovra, un dossier di 24 pagine con tutte le misure, e il titolo di apertura è Famiglie e imprese, guida tutte le novità, e ci sono anche dei commenti che riguardano appunto questa manovra a firma di Guido Gentili, che il titolo è Ora il coraggio dello sviluppo, e poi a firma di Stefano Folli Le ragioni della politica, diamogli tempo, il rischio è il caos. Comunque questo primo dorso appunto è dedicato essenzialmente a tutte le vicende che riguardano la manovra. Nel secondo dorso, che è questa possiamo considerare una seconda apertura di fatto del Sole 24 Ore, si parla di Berlino. Berlino riapre al fondo salva banche, i listini europei in forte calo, euro sotto quota 1,30, spread con il Bund a 484 punti. Tra l'altro riparleremo di mercati più avanti in prima edizione. E poi taglio centrale le vicende di Fiat. Marchionne, la Fiat privilegia l'Italia, ha presentato il nuovo modello della Panda prodotto a Pomigliano. Anche una storia interessante, una bella storia che arriva dall'Aquila. L'Aquila riparte dallo stabilimento di Alenia. Entro i primi mesi del 2013 sarà pronta ad Aquila il nuovo impianto. Questa è la storia che ci racconta il Sole 24 Ore, e che tiene in prima pagina anche un'altra notizia importante di giornata, ossia che Pechino impone dazi fino al 22% sulle auto americane. Sono colpite le grosse cilindrate di General Motors e Chrysler. In prima pagina si parla del virus del protezionismo. Da segnalare ancora l'addio di Marina Grossi dal vertice della Selex dopo l'uscita del gruppo da Guarguaglini, moglie quindi di Guarguaglini, lascia la guida ai Selex dopo tutte le inchieste. L'apertura del Corriere della Sera è manovra ai costi per le famiglie, la Lega contesta il Premier, taglia i vitalizi dei parlamentari. E sulle liberalizzazioni segnaliamo il commento di Dario Di Vico, il titolo è già di per sé abbastanza esplicativo, quel carniere quasi vuoto, invece l'editoriale di prima pagina è a firma di Sergio Romano. Il titolo è Lo sforzo di Monti, gli assalti leghisti, un professore senza allievi. Allora, per quanto riguarda invece la crisi dell'Europa, il titolo scelto dal Corriere della Sera è che Si parla della Merkel soddisfatta delle riforme strutturali italiane, ma soprattutto della Francia rassegnata a perdere la tripla A. Euro e borse in caduta. C'è anche una vicenda che riguarda l'antitrust che troviamo in prima sul Corriere della Sera. L'Auditel multata perché favorì Rai e Mediaset di taglio basso. La vicenda di Mentana, della quale vi abbiamo parlato naturalmente nel giornale radio, e questo il quadro appunto dal Corriere della Sera. Vi segnaliamo anche la bufera sulla Roma e Totti contestato, che dice: potrei andare e via. Veniamo alla Repubblica, il titolo molto energico: le lobby fermano le liberalizzazioni, vincono i farmacisti e le banche, l'ira di Bersani, aumentano le sigarette, pensione e contributivo per i parlamentari, l'Italia dei Valori che dice voteremo contro. Si parla anche delle bagarre e insulti della Lega al Senato, Monti apre sulla Tobin Tax, domani la fiducia. A centropagina una la foto dei deputati leghisti con i cartelli con scritto basta tasse, giù le mani dalle pensioni, non è una manovra, è una rapina. A centropagina, dopo la strage di Firenze, della quale vi abbiamo ampiamente parlato, ieri tra l'altro a Firenze è stata giornata di lutto, si parla della retata avvenuta ieri, razzismo, retata dei neofascisti a Roma, questo a centropagina per la Repubblica, un commento a firma di Adriano Prosperi in prima pagina, il virus dell'odio etnico. Sul tema liberalizzazioni a firmare è Alberto Bisin, il commento sulla Repubblica. La trincea corporativa è il titolo. Si parla anche del via libera alle intercettazioni, arrivato dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera per il ministro Saverio Romano. L'ex ministro, scusate, naturalmente, Saverio Romano. Questo è il quadro della Repubblica. La Stampa, manovra fiducia per blindarla, questo è il titolo. Di taglio alto, cioè, o meglio sopra, nella parte sopra della Stampa, dove ci sono sempre due titoli un po' più piccoli, che però raccontano storie interessanti che ci sono all'interno, c'è la ricostruzione della strage razzista di Firenze, il killer di Firenze, questo è il titolo, si è ispirato ai film dell'ispettore Callaghan. Altra storia interessante sempre dalla Stampa, questo per parlare di sprechi italiani, la Palermo-Messina, inaugurata 7 anni fa, è già tutta da rifare. Allora, sempre dalla Stampa, un altro paio di cose da segnalare. Parla Carlo Federico Grosso, dice che sulle carceri sarà inevitabile la clemenza. Questa in realtà era solo un'altra cosa segnalare. A centropagina, grande foto che parla della presentazione della nuova Panda a Pomigliano, il via alla produzione e il cane Marchione che dicono ripartiamo dall'Italia. Il Messaggero, l'apertura è stop alle liberalizzazioni, anche qua un commento di Stefano Cappellini, prima pagina, dal titolo prigionieri delle lobby, si parla anche della stretta su pensioni e stipendi in Parlamento. Di a centropagina si parla delle due squadre romane, sia la Lazio che la Roma, Lazio avanti in Europa e Totti che dice potrei andare via, essendo un quotidiano romano Il Messaggero, si parla anche del blitz contro i neofascisti, il PM dice progettavano attentati, a firma di Luigi Manconi, sociologo, il commento di prima pagina, il seme del razzismo. Ci ricorda anche Il Messaggero che è stato scelto come persona dell'anno quest'anno da Time, dalla rivista Time, il contestatore, il manifestante, comunque the protester, quindi non una persona ma, per così dire, un tipo. Segnaliamo anche dal Messaggero, per chi volesse, un pezzo a firma di Enrico Vanzina: il cinepanettone torna alle origini per raccontare l'Italia che cambia. Andiamo a dare un'occhiata a cosa troviamo sulle, anche sulle prime pagine dei quotidiani esteri, sulle prime pagine online, quantomeno dei quotidiani esteri. Inizierei dal Wall Street Journal, perché se è vero che il Wall Street Journal titola sui timori per le banche mondiali, i timori per le banche mondiali che derivano anche appunto dalla crisi dell'euro, Eurozona, è vero che la foto che troviamo in home page invece è tutta italiana ed è la stessa foto che troviamo in prima pagina e nelle pagine politiche su molti quotidiani italiani, ed è la foto dei deputati leghisti alla Camera che alzano i loro cartelli, appunto, basta tasse, non è una manovra, una rapina, quelli di cui vi riferivamo poco fa. Ci sembra interessante segnalarvi questa storia che arriva dal New York Times ed è una vicenda che riguarda il massacro di 24 civili avvenuto nel 2005 in Iraq. E qual è la storia? La storia è che un giornalista del New York Times, naturalmente la prendiamo come New York Times ce la racconta, bisogna vedere invece se questi documenti sono arrivati attraverso altra via, comunque ha ottenuto dei documenti classificati, ovvero dei documenti segreti, che sarebbero top secret. Sono dei documenti segreti e sostiene di averli ritrovati nello stesso Iraq, in una discarica dove normalmente vengono venduti oggetti che vengono lasciati dalle truppe americane quando abbandonano il campo. È un rapporto di 400 pagine, era tra l'altro insieme ad altri documenti classificati, questo ripetiamo, quello che sostiene il report del New York Times, poi magari invece gliel'ha passato qualcuno e si tenta di proteggere la fonte, comunque così viene raccontata appunto, ed è interessante soprattutto perché riesce a raccontare in maniera abbastanza chiara in riferimento a questa strage che fece 24 vittime nel 2005 una situazione di stress pesantissimo nella quale vivevano i soldati americani, arrivati quasi addirittura, si racconta, a sparare a vista persino ai civili. Questa mette in evidenza molto la situazione di stress alla quale erano sottoposti i soldati americani in Iraq. Il Financial Times decide di aprire con la questione della Cina, la Cina che si prepara a mettere questi maxi dazi all'importazione di vetture americane intorno al 22%. Ultimi segni, dice il Financial Times, di frizioni sul commercio tra i due paesi, ma sottolinea anche il Financial Times che crescono i timori per quanto riguarda la crescita di India e Cina, e quindi di due delle maggiori economie emergenti, insomma, probabilmente viene fatto intendere in qualche misura anche questi nuovi dazi sono forse un segnale di tutto questo. Interessante, dal Telegraph, quello che sarebbe il capo di Stato Maggiore britannico, il generale Sir David Richards, il quale parla espressamente dei rischi dal punto di vista militare, cioè le ricadute militari della crisi dell'euro. Che cosa dice in sostanza? Dice: gli Stati Uniti già stanno tagliando il budget della difesa. Gli Stati europei si potrebbero preparare o potrebbero tagliare i budget della difesa da un momento all'altro. Naturalmente a questo punto ci toccherà sopperire a tutto questo in qualche modo, cioè bisognerà che quei sistemi di difesa che in parte erano integrati vengano, come dire, coperti in qualche modo. Interessante, vi segnaliamo anche dal Guardian le tensioni che salgono tra la Gran Bretagna e la Francia sul trattato europeo. Si riporta una presunta frase di Nicolas Sarkozy che avrebbe chiamato David Cameron an obstinate kid, ossia un ragazzino ostinato, per così dire. Così chiudiamo questa parte dedicata alla rassegna stampa, ci ritroviamo tra un attimo con le notizie del giornale radio. Prima edizione.

Milano e dalle 21 di stasera fino alle 21 di domani sera le ferrovie, anche se per quanto riguarda i treni saranno garantiti i servizi minimi nelle fasce 6-9 e 18-21, oltre ai treni a lunga percorrenza. Oggi poi sciopero dei mezzi pubblici a Bologna, per tutti gli altri invece scatterà domani. Qui a Bologna mezzi fermi dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Nelle altre città invece scatterà domani, come dicevamo, le modalità come sempre sono diverse. Qualche esempio: Roma si fermerà dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 a fine servizio, Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio, Napoli dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, Torino dalle 9 alle 12 e poi dalle 15 a fine servizio. È tutto. Grazie a Maria Piera Ceci, e adesso noi cambiamo argomento e parliamo di mercati. Parliamo di mercati perché la giornata di ieri è stata un'altra giornata decisamente dura, quindi con questo Eurovertice che sembra non convincere. Che iniziamo da che cosa ci aspetta per oggi. Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Allora, come di consueto oramai e purtroppo ammettiamo, partiamo dall'Asia. Anche qui oggi tutti i segni negativi, Tokyo in questo momento cede oltre 1,5%. Continua a non convincere questo accordo europeo, continuano le preoccupazioni sulla crisi del debito dei paesi del vecchio continente, una preoccupazione che, a parte qualche brevissima parentesi, non ha mai abbandonato nemmeno l'Europa stessa. Come appunto dicevi tu, ieri è stata una giornata davvero difficile. Milano ha chiuso con una flessione del 2,8%, Francoforte 1,72%, Parigi la peggiore meno 3,33%. In questo caso sono molto pesanti le preoccupazioni relative alla perdita della famosa tripla A da parte della Francia. Valeria, ci sono molte pressioni anche dal lato valutario, ci è sembrato di capire. Assolutamente sì, tant'è che ieri per la prima volta dall'inizio dell'anno l'euro è sceso sotto quota 1,30 sul dollaro. In questo momento sapete i mercati delle valute sono sempre in movimento, 1,29 e 78, quindi anche da questo punto di vista euro molto debole. Per quel che riguarda il cambio con il biglietto verde, ma in generale diciamo l'euro sta soffrendo molto anche qui in conseguenza della crisi che sta attraversando l'Europa. In chiusura lato titoli di Stato, Valeria. Ecco, altra nota dolentissima, perché ieri sono tornate ad allargarsi tutti i differenziali verso il Bund tedesco. Per quel che riguarda l'Italia, il differenziale è tornato a quota 488 punti base, quindi BTP Bund 488 punti base. Grazie dunque a Valeria De Rosa per questi aggiornamenti. Noi adesso ci sentiamo come vanno le cose su strade e autostrade e poi parliamo un po' di sport. Prima edizione. 6:46 minuti e 58 secondi col nostro Dario Ceccarelli. Buongiorno Dario, innanzitutto. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Come potrete immaginare, faremo un punto. Ieri molto nei palazzi lo sport e molto poco sul campo, diciamo. Sì. Tra tavolo della pace e tessera del tifoso, no? Sì, cominciamo al tavolo della pace, che come sappiamo è finito nel nulla, un po' come quando a Natale ci si trova tra parenti e finisce tutto a pesci in faccia. Tavolo della pace, Dario, che doveva servire... Al tavolo della pace doveva servire a ricomporre le antiche ferite, gli antichi odi tra le società per Calciopoli, per lo scudetto della Discordia, eccetera, eccetera. Un tentativo quasi ingenuo, fatto da persone non ingenue, perché in genere sono tutti ben... sanno come vanno queste cose. Esatto, ed è finito un po' come a Natale ci si trova quando tra parenti che non ci si ama troppo, all'inizio tanti auguri e poi dopo finisce che a pesci in faccia, no? E così è un po' finito anche questo tavolo della pace, con tutti i presidenti che si rinfacciavano i peccati che secondo ognuno l'altro avrebbe commesso. L'intento era buono, ma non si cancella in una mattina anni di così di guerre di religione al vetriolo, e probabilmente no, era anche difficile pochi giorni dopo la sentenza più dura di Calciopoli e poche ore dopo l'annuncio del ricorso al TAR della Juve. Allora, a proposito di palazzo, palazzi, non in questo caso, anzi i tribunali amministrativi, non in questo caso non il TAR, ma il Consiglio di Stato, c'è stata la bocciatura della tessera del tifoso, sì, che anche... però non è definitiva. No, non è definitiva perché per il momento resta valida, come ha precisato il Viminale. Per il giudice e il Consiglio di Stato questa tessera non va bene, perché dicono che abbinare la tessera alla sottoscrizione di un contratto con una banca per ottenere questa carta prepagata condiziona il tifoso e può diventare una pratica commerciale scorretta. E quindi niente, adesso si dovrà pronunciare il TAR del Lazio su tutta la vicenda. Però c'è tutto uno schieramento multiforme, perché come ricordiamo Maroni si era adoperato parecchio per questa carta del tifoso, quindi la Lega e Maroni insisteranno perché tutto rimanga com'è. Molti altri politici di tutti gli schieramenti sono contrari per motivi personali e di tifo, e intanto la cancelliera, il ministro dell'interno fa un po' muina e dice che aspetterà di leggere le motivazioni per poi decidere. Quindi al momento resta valida, anche se è una cosa non amata dagli ultra e da moltissimi tifosi, perché comunque comporta un sacco di complicazioni nelle trasferte, bisogna prendere prima tutto, insomma è una cosa molto macchinosa. Vedremo che cosa succederà dunque. Grazie al nostro Dario Ceccarelli, grazie a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto come sempre da Simone Spezia. Ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio delle 7:00.